voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. 17ª puntata. Paura. Una sera di nebbia e di sirene al Lido di Venezia, una signora sola tornava a casa. Aveva 70 anni, era vedova e nella sua vita aveva avuto poca compagnia, salvo una serie di gatti siamesi, una ventina d'anni prima. Poi un bassotto, che era morto prestissimo in seguito al suo troppo zelo nel nutrirlo, mangiava solo tagliatelle al burro e fegatini di pollo, e il marito. Ma anche quello era morto 2 anni prima, e di lui restava soltanto il ricordo vago, come di un'ombra alta e un po' curva, con 2 baffetti che ora, a ricordarlo nella nebbia, si perdevano nella nebbia. Da poco aveva un canarino. La figura di questa donna era insieme infantile e animale, rotonda, con una pellicciotta interna che la arrotondava ancora di più. Aveva un colbacco rotondo, e tutta la sua persona, sostenuta da gambe come colonnine fragili, si muoveva nella nebbia con l'incertezza di un bambino di 2 o 3 anni che impara a camminare. Procedeva lentamente, come portata avanti dalla collottola, che aveva grassa e robusta, come una piccola gobba tra il collo corto e l'inizio della spina dorsale. Quel punto, tra testa e schiena, racchiudeva nella sua convessità una forza animale e suina che era il segreto della sua prepotenza e del suo egoismo. Ma, come accadde in nature così composite tra animalità e umanità, la signora aveva occhi celesti chiari di bambina bizzosa, capricciosa e infinitamente ingenua, sempre pronta a ridere. Così, con tutte queste cose nel corpo, fragilità, animalità, bizzosità e allegria, procedeva lentamente ma inesorabilmente nella nebbia dei vialetti deserti del Lido. Pensava, ma in modo anche quello composito, come in sogno, a metà tra la sensazione e il pensiero. Pensava a una pentola a pressione che aveva visto usare proprio quella sera e che avrebbe voluto comprare, senza essere certa di saperla usare, e dunque con un po' di paura per l'accumulo di pressione e lo scoppio. Quella pentola però mancava la sua collezione di pentole, tutte nuove, che teneva insieme ad altre pentole vecchie, in grandissima quantità, dentro un magazzino affittato in un convento di suore. Nel magazzino, oltre le pentole, aveva coperte, materassi, un baule pieno di biancheria, qualche mobile e alcuni scatoloni di cui non riusciva in quel momento a ricordare il contenuto. Forse le statuine di gesso di un vecchio presepio e i ninnoli per l'albero di Natale, tutta roba che non aveva mai più tirata fuori essendo sola. Un tempo, quando aveva il marito e il figlio, quando era piccolo, costruiva l'uno e l'altro per Natale. E a questo pensiero, quello della sua solitudine, si perdette un poco tra commozione e il nulla delle cose e delle persone. Ma il pensiero non tardò a mutare e a concentrarsi, come sempre accade nei vecchi, nei particolari che riguardavano direttamente e immediatamente la propria vita. Una macchia di umidità che pareva allargarsi ogni giorno di più nell'angolo del soffitto della sua camera da letto, perché l'amministratore non provvedeva, dopo essere stato sollecitato 1000 volte. La signora si arrabbiò. La forza che stava tutta nella nuca parve come raggrinzirsi in un profondo senso di ingiustizia e di dispetto provocato ai suoi danni, e accusò dentro di sé il figlio lontano, di cui non sapeva se era vivo o morto anche lui. Camminava lentamente, in quel modo infantile e un po' pesante, come avviene quando lo spirito così vicino ai muscoli, ai tendini, ai nervi, ha già ceduto alle illusioni del passato e non resta altro che procedere un po' alla deriva come una barca. Infatti si udì per 3 volte la sirena bassa e lunga di un rimorchiatore o addirittura una nave, un transatlantico che usciva dal bacino di San Marco. Qui lo spirito della signora, come sempre quando udiva quelle sirene, si risvegliò e anche il passo. Se potessi, se avessi le possibilità, andrei in crociera d'inverno. Prima di morire vorrei andare anch'io in una piccola crociera, pensò la signora. E all'idea del viaggio parve risvegliarsi. Non temeva i viaggi, anzi era sempre pronta a farli. E il momento in cui tutto il suo spirito si risvegliava e accendeva era quello in cui metteva piede, il più agilmente possibile data la sua corporatura e la sua età, sul predellino di un treno o di una corriera. Sarebbe salita anche in aeroplano, ma ora aveva davanti a sé, fittissima, la nebbia del Lido. Sentiva gocciolare gli alberi, qualche scarico nei canali e lo sciacquio della laguna non lontana ma invisibile. Pensò al canarino e immediatamente a certi piccoli scoiattoli che aveva visto nel giardino di Schönbrunn a Vienna e mangiavano nella mano. Ogni tanto qualche ricordo passava rapidissimo nella sua mente, limpido, chiaro, dove poteva distinguere nei particolari se stessa più giovane, il figlio, il marito e i suoi baffetti li ricordava neri, un'altra città. L'estate sulla spiaggia, quella stessa spiaggia fredda e umida nella notte che era lì a pochi passi. Le gelaterie, le luci e poi di colpo la neve e il ghiaccio delle strade di Cortina dove per lei era necessario camminare a minimi passi per non cadere. Era il pensiero che aveva suggerito i passi o i passi avevano suggerito il pensiero? Perché udì dei passi e delle voci dietro di sé. Erano voci di ragazzi che camminavano veloci e la raggiunsero. Non li vedeva quasi perché la nebbia aveva appannato gli occhiali, li intravedeva. Uno di questi che le passò accanto guardandola aveva i capelli lunghi. A quel punto i ragazzi smisero di parlare e la superarono lentamente in silenzio. Ancora si udì la sirena del transatlantico, ormai giunto quasi al limite del mare aperto all'altezza del faro. Rex! Fu il pensiero della signora. Per un istante pensò al fratello, commissario di bordo del Rex, morto molti anni prima. Il Rex non ci sarà più, non è affondato, si chiese la signora e così pensando si accorse che i ragazzi erano ancora lì, vicini a lei, muti e con passo uguale al suo. Uno dei ragazzi si avvicinò e proprio sopra un ponte si sentiva lo sciacquio del canale sotto le tavole di legno del ponte, si fece di fronte a lei. La signora aveva paura e in quel modo confuso, veloce e incredibile che l'immaginazione di una persona anziana e assolutamente normale può avere in un momento come quello, pensò alla morte. Era tutta lì, lo sciacquio, la nebbia, la sera, l'affogamento dentro la pelliccia nell'acqua nera del canale, il cimitero. Udì la voce del ragazzo, una voce bassissima da uomo anziano e beone. Il ragazzo disse: «O mi dai la borsetta o te copo!» Le gambe della signora tremavano. «Ma perché?» si disse. «Tanta paura della morte e quel te copo aveva tutta l'ignoranza della verità. Perché tanta paura della morte? Sono sola!» E disse lentamente con un tremito ma con voce dura: «Copeme!» Il ragazzo esitava. «Dammi la borsetta!» disse ancora con quella voce delittuosa e casuale coperta dalla nebbia. L'alito fumava. «No, non te la do. Copeme! Vediamo se lo sai fare!» Strinse con tutte e due le mani la borsetta, ma guardò con forza animali il ragazzo, di cui vedeva solo i contorni lunghi e curvi a forma di S. Il ragazzo le diede una spinta sulla spalla, una specie di pugno, e la signora traballò e andò a sbattere contro il parapetto del ponte. Di nuovo disse, con la voce tremante di indignazione, questa volta tra le labbra strette, «Copeme!» E a questa parola il ragazzo fuggì correndo, seguito dagli altri due. La signora aveva il cuore in gola. Stette appoggiata al parapetto del ponte come rannicchiata, senza arrischiarsi di stare sulle proprie gambe, che ora non la reggevano. Aveva gli occhi pieni di lacrime e non vedeva più nulla. «Copeme, disgraziato, assassino!» disse quasi tra sé e cominciò a piangere con piccoli sussulti nella schiena. Piano piano la paura passò. Le gambe, fece due o tre tentativi, la sostennero e altrettanto piano riprese la strada di casa. Un po' di paura l'aveva ancora, perché stava percorrendo la stessa via dove erano fuggiti i ragazzi. Forse l'aspettavano da qualche parte più avanti, ma ormai anche lei sentiva che la sua ora non era giunta, che poteva tornare a casa abbastanza tranquilla, camminando però piano. Pazienza, primavera. Un giorno di febbraio, alla fine, sotto una pensilina, o una piccola pensilina, la solita, un uomo e una donna, in quel momento molto più giovani di quanto avrebbero dovuto essere, parlavano. L'uomo era calvo e la donna come gonfia, ma non era incinta. Disse la donna: «Fatto sta che non abbiamo più niente da dirci». L'uomo pensò che una frase simile era stata detta nel mondo miliardi di volte, senza riuscire mai veramente e totalmente banale. Anzi, quelle parole gli strinsero il cuore. Spesso non ha importanza, non è necessario parlare, ci si fa un po' di compagnia, è già qualcosa. «Non sono di questo parere», disse la donna, intendendo così ricominciare un discorso sulla disparità dei pareri e sulla necessità di una rottura netta che avrebbe posto fine a un brodo troppo lungo. L'uomo tacque. «Che c'è da dire?» pensò. «In casi così è meglio tacere». Anche questo, tuttavia, gli parve un pensiero non detto miliardi di volte nel mondo e pensato senza dirlo altrettanti miliardi. Cambiò. «Cosa vuoi? A pensarci bene, tutte le persone sono sole, cosa credi?» «Forse è vero, ma io l'ho sempre pensata in maniera del tutto opposta. Se do tutto, voglio tutto, allora soltanto si è in due». «Ahi», pensò l'uomo. Un uccellino piccolissimo si era appoggiato per terra e, saltellando qua e là, tra un saltello e l'altro, a zampette unite, cantava, canterellava. Era molto piccolo e magro e non beccava per terra come fanno di solito gli uccelli. Stette un poco tra la polvere. Poi saltò su un mucchietto di neve dura e coperta di fuliggine. Affondò tutto il becco e lo ritrasse con stupore, scuotendo il piccolo capo. Poi saltò su un ramo di un alberello e da lì cantò e trillò apertamente. Da quel ramo partivano altri rami grigi e su questi si intravedeva appena, a intervalli regolari, un puntino verde. Si vedeva e non si vedeva. «Per questo sarebbe meglio che tu mi lasciassi. Tu vai per la tua strada, io per la mia, e amici come prima», disse la donna, e fece un gesto come per assestarsi il grosso petto e la pancia. «Ahi», pensò l'uomo, ma questa volta il lamento non aveva nulla di paziente come prima. Questa volta cominciò con il sospiro paziente dell'impazienza e continuò con un sospiro vero di dispiacere. «Ma siamo già amici. Sì, ma non nel senso che intendo io. Non mi va quel genere di amicizia lì», disse la donna. «Meglio niente». E ancora si assestò il gonfiore. «E allora vai, lasciami. Te l'ho detto mille volte che ne hai tutto il diritto. Ma che diritto? Hai ragione, 100 ragioni, ma io che ci posso fare?» La donna aveva il muso, cioè qualcosa di lungo nelle labbra protese. «No, devi essere tu a lasciarmi. Così non ci penso più. Passerà un mese, ne passeranno 2, 3, 4, 5 e non ci penserò più, sarò male, poi passerà», disse la donna. aveva una bellissima piccola bocca rossa, con il labbro superiore tirato in su, e si vedevano i denti bianchi e anche belli, salvo un canino con una punta di piombo. Aveva anche un'ombra di baffetti. E perché poi tutte queste fatiche, pensò l'uomo, il lasciarsi, il non lasciarsi, la lascio io, mi lascia lei, quante fatiche, quanti dispiaceri solo a pensarci, chi l'ha ordinato, il medico? Ma poi, come un'ammazzata, quasi si udì pensare, ma questa è la gioventù, sono i pensieri intolleranti della gioventù, si vede che lei ha ancora i pensieri della gioventù, a cui invece tutto passa. C'era una piccola aria che agitava il ramo, che sapeva di neve e anche di qualche cosa d'altro che scioglieva la neve sulle montagne. Il sole era escluso, ma forse un po' di calore da qualche parte c'era. Infatti la donna non aveva i pomelli rossi dell'inverno quando entrava in qualche luogo riscaldato, bensì la pelle uniforme e rosea, un po' giallognola sulla gola. Ingrasserà, pensò l'uomo, è il suo destino. Ha tutta la struttura delle donne che ingrassano. Deve stare molto attenta, lo disse. Senti chi parla, disse la donna di nuovo col muso. Guardati, ti saltano i bottoni. Io non mangio mai niente. E improvvisamente gli occhi le si inumidirono e luccicarono. Adesso non ti mettere a piangere, disse l'uomo, non troppo duramente, anzi il contrario. E ancora la miliardesima frase gli suggerì che nel particolare minimo del caso la storia si ripete nei popoli, negli stati, nelle famiglie, nelle persone e i loro due. No, non piango, disse la donna, e infatti non pianse. Solo che sono una disgraziata. A chi lo dici? Disse l'uomo. Io lo sono, ma tu no. Come no, non vedi? Disse la donna. Non vedo cosa? Che non sono capace di mandarti al diavolo, disse la donna, e negli occhi lucidi, nell'improvviso incavarsi delle fossette, nell'aprirsi dei denti alla luce con un filo di saliva tra l'uno e l'altro, spuntò un sorriso. Sei una bella donna, sorrise l'uomo a cui pareva che la nuvola fosse passata. Hai tutta la vita davanti a te. Questa gli parve la più grossa di tutte, ma non c'erano altre parole veramente per dire quella stessa cosa in modo così semplice. Com'è possibile dire hai tutta la vita davanti a te? Pensò l'uomo. È vero che l'amore è banale, anche se meraviglioso, anzi meraviglioso proprio perché banale, ma grossa così. Come si fa? Eppure la banalità, piano piano, cioè loro due, come le immagini delle polaroid che appaiono e si colorano solo dopo un paio di minuti, la banalità gli apparve come una cosa da non buttar via, anzi bella, ancor più bella con l'abitudine. Improvvisamente ci fu un gran cinguettio di uccelli intorno alla pensilina, una specie di zuffa dove uno saltava sopra l'altro, ma si trattò di pochi secondi, poi sparirono. Come mai tutti quegli uccellini? Sarà la primavera, disse l'uomo. Sì, la primavera. Quale primavera, a febbraio? Disse la donna ancora immusonita. Bene, ciao, arrivederci e grazie. Si alzò, chiuse di colpo la zip della pelliccia inarcandosi, gettò a tracolla la borsa. Quasi spaventato, tra spaventato e irritato, l'uomo disse: adesso che fai? Ho detto arrivederci e grazie, disse la donna, ma intanto andava frugando nella borsetta. Cavò il pacchetto di sigarette, ne prese una, l'accese con l'accendino. Il gesto tranquillizzò l'uomo. Infatti la donna non si mosse. No, veramente, disse quasi pregando, sono stufa, te l'ho detto, anche per telefono, che vita è? Sempre la stessa, che futuro c'è? Io mi stufo, sul serio, mi stufo. E sbuffò, o aspirò aria, non si capiva. Pazienza, pensò l'uomo, e così, pensando, gli venne da contrattaccare. Stufa di cosa? Disse. La donna fece spallucce, grassa, pensava. E lui? Da che pulpito viene la predica? Bisogna abituarsi, disse l'uomo, che tutti gli esseri viventi sono abitudinari. Io no, non mi abituo, io ho sempre speranze, tu questa speranza non ce l'hai. Hai ragione, rispose l'uomo, hai mille volte ragione. Ma come tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, così una volta detto quello che realmente sentiva da parecchio tempo ormai, gli parve una cosa terrificante. Che ci posso fare? Disse. Sono un disgraziato anch'io. Un vaghissimo raggio di luce parve uscire dalla spessa coltre di nubi, mossa da un'arietta. L'uomo alzò il capo per vedere se era davvero sole o una semplice schiarita. Era sole. Proprio in quell'istante, lo stesso uccellino minimo di prima, che stava su un ramo sopra di lui, ebbe una piccola contrazione tra le piume. Guardava anche lui in alto. E uno schito bianco e verde andò a cadere, calduccio, sulla testa calva dell'uomo. Seguì un trillo. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.